as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, oggi riniziamo il pane e rose, nuovo anno 2022, speriamo che sia un anno che ci porti tante soddisfazioni per quanto riguarda lotte e battaglie sindacali e politiche. Oggi iniziamo la nostra trasmissione di quest'anno con un ospite speciale. Abbiamo intervistato a dicembre, durante la presentazione del film nel direttivo regionale della FIOM, i 120 anni della FIOM, Gianni Rinaldini, quello che chiamiamo il grande vecchio. Per noi metalmeccanici è stato, diciamo, non se ne vogliono gli altri segretari, quelli che sono arrivati dopo, però lui è stato il grande, l'ultimo dei grandi intellettuali, i nostri segretari dei metalmeccanici. Prima di lui c'è stato Claudio Sabatini, che chiaramente non è stato solo un segretario, è stato qualcosa di più. Avevamo dei segretari in quegli anni che riuscivano a sviluppare, oltre a una politica sindacale, anche qualcosa in più, che andassero oltre, che avessero una visione di quello che doveva essere la società. Gianni Rinaldini è stato, diciamo, forse l'ultimo degli intellettuali che abbiamo avuto come segretari dal meccanici. Ecco perché abbiamo colto l'occasione per intervistarlo, non è che lo vediamo sempre. Lui, attore di questo film, il documentario sui 120 anni della FIOM, lui è la voce narrante, è la persona che, insomma, racconta in questo documentario i 120 anni della FIOM. Non è l'unico, ma il soggetto principale. Ha fatto benissimo a scegliere lui, chiaramente, anche perché purtroppo gli altri sono tutti morti, gli altri segretari che hanno fatto la storia della FIOM. Gianni Rinaldini, per chi non lo conosce, è classe 51, 70 anni. In realtà lui non è un metalmeccanico puro, perché lui viene dai chimici, era un delegato dei chimici, insomma, della Filcem. Poi diventa segretario della CGIL di Reggio Emilia nell'89, nel 96 diventa segretario della CGIL dell'Emilia Romagna e dopo Sabatini diventa nel 2002 segretario della FIOM e fa due mandati. Adesso non so qui a raccontarvi la sua storia, andate a vederla. Come segretario della FIOM, insomma, ha partecipato alle battaglie molto importanti degli anni del 2000, cioè dopo di lui è arrivato Landini. Il riscatto della FIOM rappresenta per molti di noi. Ora ascoltiamo prima un pezzo della storia delle canzoni di lotta sindacali e poi ascoltiamo Gianni Rinaldini e poi ci sentiamo per le conclusioni. Stasera ti prego, di mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro, della libertà. Per tutti, tuo padrone vedrai cederà, se invece vince perché i crumiri gli danno la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, lo si chiamava i compagni alla lotta, quando il padrone fa un cenno, una mossa, uno dopo l'altro cominciano a entrare. Cara moglie, dovevi vederli venire avanti, curvati e piegati, e noi a gridare crumini venduti, e loro dritti senza guardare. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro, là sul portone, rideva allegro il porco padrone, lo maledetto senza pietà. Siamo qui al direttivo regionale della FIOM. Oggi è stato presentato il film sui 120 anni della FIOM. Gianni Rinaldini è uno degli attori protagonisti, visto che nel documentario bellissimo che oggi abbiamo potuto vedere racconta un po' questi 120 anni. Io ho visto il film, è stato bellissimo, hai detto cose interessanti. Vorrei che ci raccontassi un po' di questo film, anche delle cose che tu hai detto riguardo ad oggi, perché hai tracciato un po' la storia della FIOM partendo dall'inizio e fino ad oggi, e le tue conclusioni sono state molto interessanti. Volevo da te, insomma, un racconto di come è stato questo documentario, delle cose che tu hai detto, insomma. Ma il documentario è riferito all'intera storia della FIOM e della CGIL. Credo che sia un documentario fatto molto bene, perché evita il rischio di cose anche un po' noiose e ripetitive. E di questa storia io credo che ci sono stati successi, sconfitte, come in tutte le storie della sinistra di questo secolo. Ma il problema che abbiamo adesso è il fatto nuovo che ha interrotto una fase di ripresa delle lotte operaie all'inizio degli anni 70, che è la globalizzazione. Tra l'altro in questi giorni, o meglio nella giornata di ieri, c'è stato questo successo della sinistra in Cile. Io lo voglio ricordare perché il Cile fu la fase di sperimentazione. Allora erano la scuola dei Chicago Boys, di un modello sociale che poi è stato quello assunto dalla globalizzazione capitalistica. Non a caso la prima misura che fece Pinochet fu quella della privatizzazione del sistema previdenziale. Poi fece la stessa cosa sulla sanità, su tutto. E il fatto che questa novità del successo in Cile, sperando che faccia seguito in Brasile la caduta di Bolsonaro e l'avvento di Lula, sta a dimostrare che una situazione, seppure molto pesante, però c'è sempre una speranza da cui tu riparti. La situazione in Italia è una situazione che il nostro paese è un paese commissariato. Adesso si possono fare tutti gli orpelli su aspetti costituzionali o meno, ma non è questo l'elemento che... Il problema è che noi siamo l'unico paese in Europa dove il Parlamento non è stato in grado di fare un governo. E quindi siamo stati commissariati da un soggetto che negli ambienti finanziari ha una sua assoluta autorevolezza anche a livello internazionale, ma siamo al limite della tenuta del sistema democratico, con un Parlamento che è semplicemente indecente, perché basta parlare o sentire di cosa parla la gente, è un Parlamento sputtanato, gente che cambia partito da un giorno all'altro, formano altri gruppi eccetera eccetera, per cui a livello popolare il problema è: ma quando è che vanno in pensione? A settembre? O siamo giunti ad una situazione di pericolo della stessa democrazia. Credo che l'iniziativa dello sciopero generale promosso dalla CGIL e dalla UIL abbia anche questo significato. La reazione che c'è stata di tutta la stampa più, non tutte, ci sono alcune eccezioni, ma tutte le grandi testate giornalistiche, i vari canali televisivi eccetera, è stata scandalosa, come se la proclamazione di uno sciopero generale fosse un fatto eversivo, fuori dalle regole. Credo che il coraggio di avere proclamato lo sciopero generale sia elemento per rompere questo gioco. Ripeto, senza farsi eccessive speranze, l'atto positivo sta in sé, dopodiché è chiaro che prossime settimane cosa succede sul Presidente della Repubblica, se riescono a fare un governo, non fare un governo, andare alle elezioni, però attenzione che è già in corso una torsione autoritaria del nostro Paese. Gianni, la cosa che mi ha colpito del film, tu hai detto una cosa molto interessante, perché hai fatto un parallelismo su quello che è accaduto in Italia con i 36 giorni della Fiat e la questione della Thatcher in Inghilterra, in cui hai parlato dell'inizio della globalizzazione. Ci vuoi parlare di questa cosa che per noi come metalmeccanici è importantissimo? Lo scontro nell'80 alla Fiat ha avuto questo significato, che lo scontro fosse preparato da tutti i punti di vista è altrettanto evidente. Non scordiamoci che la stessa strage di Bologna il 2 agosto avvenne un mese prima dell'inizio dello scontro alla Fiat, che tutti sapevano che in autunno si apriva questa portata. Anche le date della strategia della tensione, delle bombe eccetera, se uno le va a ricostruire trova delle singolarità, così come l'inizio con la strage di Piazza Fontana nel pieno del contratto nazionale dei metalmeccanici. Sono cadenze perlomeno strane, diciamo così. Cosa ha significato quel passaggio? Il passaggio ha significato che la Fiat aveva preparato un'offensiva che aveva un obiettivo: ripristinare l'unicità del comando dell'impresa rispetto alle condizioni di lavoro, cioè cancellare un'esperienza che ha avuto nel corso di un decennio, in cui erano entrate in discussione i rapporti di potere, cioè che nella fabbrica tu non contrattavi solo salario e orario, ma trattavi concretamente le condizioni di lavoro. Tante esperienze anche rispetto alla salute, ha segnato questo passaggio. C'è una coincidenza di quel periodo con altri passaggi, che è quello della Thatcher, che sconfigge i minatori in una durissima battaglia campale e afferma che la società non esiste, esistono gli individui. Reagan negli Stati Uniti, che sostituisce i controllori di volo in sciopero con i militari. È l'inizio a livello internazionale, poi i singoli episodi possono essere richiamati, ma ancora di più è l'inizio, ad esempio, in cui la Banca d'Italia assume la sua autonomia rispetto al rapporto con il governo, quindi la finanziarizzazione. È l'inizio di un processo che è quello della globalizzazione. e la globalizzazione non contempla vincoli di carattere sociale. Tutto viene ricondotto ad una dimensione di merce e esistono soltanto meccanismi che siano funzionali ad una guerra tra le imprese a livello nazionale, internazionale, oggi si parla delle delocalizzazioni, che questo ha il significato fondamentale di quello che è successo. Il riferimento, ho detto, sono gli Stati Uniti, perché il modello sociale degli Stati Uniti non è quello dell'Europa. La Costituzione americana non è la Costituzione dei paesi europei. La Costituzione americana è fondata sulla libertà individuale. Tant'è vero che uno può comprarsi le armi a differenza dell'Europa, perché fa parte di quel modello sociale degli Stati Uniti. I contratti nazionali non esistono, lo Stato sociale non esiste. Esiste un ruolo del sindacato che è ridotto, laddove riesce ad entrare, ad una dimensione puramente aziendale, legata alle imprese, e dove nel contratto con le imprese si mettono anche le pensioni, la salute, eccetera. Questo è il riferimento degli Stati Uniti, dove hai l'esasperazione di tutte le diseguaglianze sociali e ci sono i punti di eccellenza e hai la gente che non ha la sanità, non ha le condizioni europee. Questo però determina, assunto a livello internazionale, non è la pacificazione, come qualcuno ha fantasticato, che si apre un conflitto tra interessi. Certo. Tra interessi economici diversi, che in realtà è la base della prima guerra mondiale, se vogliamo tornare al passato, di interessi economici diversi per la spartizione del mondo. La questione della democrazia e dei diritti umani non c'entra assolutamente nulla. Io penso che siamo di fronte ad un conflitto tra paesi capitalistici, ritengo tali sia la Cina che la Russia. Dico nello stesso tempo attenzione, perché altrimenti tutto mi sembra come dire legato al nulla. Se il clima che oggi, la transizione ecologica, tutti parlano di concertazione mondiale, giustamente, per gestire. Ma come fai a fare una concertazione mondiale in una situazione di guerra commerciale dove usi l'embargo di questo paese contro quell'altro paese? E se non blocchi questo processo, io sono tra quelli che teme di essere entrati in una fase pericolosa da tutti i punti di vista. Basti un dato. Sempre per tornare alle questioni anche del clima o altre questioni che sono sul tappeto, l'unica cosa che sta crescendo nel mondo è la produzione di armi militari. E questo è sicuro. Cosa che si non sta vanno mai crescendo. In cassa integrazione. Ed è strano che si parli per l'appunto della questione del clima senza parlare che cosa facciamo di tutte queste armi che si producono in tutto il mondo. Non ha nulla a che vedere con la questione del clima. Ecco, a me pare che una ricostruzione di una lettura di sinistra, quello che sta succedendo, sarebbe necessaria, perché altrimenti corriamo grandi rischi. L'ultima cosa ti vogliamo chiedere, Gianni, qua abbiamo concluso, è stato interessante ascoltarti come sempre. Noi metalmeccanici, qui sei stato il nostro segretario della FIOM per tanti anni, cosa dovremmo fare adesso secondo te? Come dovremmo agire? Metalmeccanici Sigella hanno fatto, insomma, in una situazione così non era semplice, perché è chiaro che la pandemia in primo luogo, come in tutte le cose, colpisce la nostra parte, la parte che noi vogliamo rappresentare. Io credo che come metalmeccanici bisogna utilizzare anche le scadenze della CGIL per aprire una discussione vera e senza infingimenti su come siamo messi. L'80 ha rappresentato un cambiamento d'epoca. Sono cambiati i partiti, sono cambiati eccetera. Non è che il sindacato non può aprire di cosa vuole dire la rappresentanza sociale nell'era della globalizzazione. A partire da un elemento che già allora, quindi, si ripropone in termini drammatici. Se gli altri si muovono su base internazionale e il sindacato non è in grado di uscire dai confini locali, quando tu sei a un tavolo di trattativa con la multinazionale, tutti sono d'accordo della parte sindacale a dire non si chiude qui, altrimenti facciamo tutte le iniziative, eccetera. Nel momento in cui la multinazionale, che agisce su più nazioni, ti dice io qui chiudo, qui aumento l'occupazione e tu non sei un soggetto sindacale di quelle dimensioni, vai in crisi. Alla fine sono solo documenti di solidarietà di un sindacato rispetto a quell'altro. Anche questo è un obiettivo che la FIOM ha perseguito, ha fallito, 3 congressi europei sono stati fatti e siamo andati sotto, però io credo che sia una questione irrinunciabile rilanciare una battaglia, anche una battaglia politica, anche a livello europeo sulla dimensione del sindacato. Oramai sono sempre più le multinazionali che operano, se tu sei legato ad una dimensione locale diventi, come dire, di risulta rispetto alla vicenda Stellantis, se lì a dimostrarlo. Se dovessero partecipare tutti i sindacati di Francia, Italia, eccetera, non so, ci sono 15 sindacati a sedersi al tavolo, dall'altra parte c'è uno. Globalizzare le lotte, globalizzare il sindacato. C'è uno che rappresenta tutti. E quando ti metterà giù le carte ti dirà qui i sindacati, uno comincerà a dire sono contro, l'altro beh non c'è male, ci sono passi in avanti, altri che dicono sì, è vero. Questo mi pare una delle questioni che i metalmeccanici hanno posto. Siamo sempre andati sotto. Abbiamo purtroppo posto, ma è un elemento di debolezza. È inutile nasconderlo, è un elemento di debolezza della capacità di incidere, ecco, come metalmeccanici. Ti ringraziamo Gianni, è stato bellissimo ascoltarti come sempre. Dai, ci sentiamo alla prossima. Va, ciao, bene, grazie. Grazie a voi. Lost, no. Abbiamo ascoltato l'Internazionale della Banda Popolare dell'Emilia Rossa. L'abbiamo messo apposta questo pezzo perché raccogliamo l'appello di Rinaldini. Siamo pienamente d'accordo con lui, l'avete ascoltato quello che ha detto, soprattutto l'appello ai sindacati italiani, a tutti i sindacati del mondo, a globalizzarsi. I capitalisti si sono globalizzati, le multinazionali si sono chiaramente concentrate, così come aveva previsto un grande marxista come Alan Woods nei suoi libri, aveva descritto tanti anni fa quello che sarebbe accaduto, sia che il capitale si sarebbe concentrato sempre più in poche mani. Questo sta accadendo davanti a noi, lo vediamo, noi che lavoriamo nelle fabbriche, nelle grandi fabbriche italiane, ma in tutto il mondo questo accade, solo che il sindacato non lo sta facendo, e questo è una delle nostre debolezze più grandi, che spesso ci porta a fare delle battaglie difensive, di resistenza, ma che non riescono ad incidere realmente. Oggi abbiamo il caso della Fiat, è emblematico, ma c'è anche la questione della GKN, ma tutte le altre aziende, in cui le multinazionali chiudono per aprire in altri posti, danno lavoro ad altri operai in altre parti del mondo con la complicità dei sindacati, e non ci si incontra, non si discute, e poi alla fine chiudono in quell'altro posto per spostarsi, con questo giochetto fanno profitti stratosferici e si arricchiscono sempre di più, e noi non riusciamo a organizzarci, non abbiamo dei referenti politici internazionali e non abbiamo nemmeno dei referenti sindacali internazionali. Il sindacato europeo purtroppo non ha forza, non riesce ad impedire, non riesce a organizzare questa battaglia. E dire la verità, l'IG Metal in qualche modo all'interno delle aziende Audi, Volkswagen sta cercando di creare dei coordinamenti e sta cercando di impedire questi fenomeni, ma con grosse difficoltà anche loro. Ma il resto è così, le multinazionali si stanno arricchendo sulle spalle di lavoratori di tutto il mondo, e dobbiamo organizzarci, e l'Internazionale è l'appello che noi facciamo. Rinaldini è stato veramente un nostro maestro per tanti punti, l'abbiamo seguito per tanti anni, è bellissimo ascoltare le sue riflessioni, sono sempre attuali, saremmo lì ad ascoltarlo per ore. Vi invito a vedere il film 120 anni della FIOM, in cui c'è la storia dei metalmeccanici italiani, perché uno la può dire come vuole, sono tanti sindacati in Italia, ma la FIOM è stata il sindacato più rappresentativo dei metalmeccanici, e in certo senso ha fatto anche la storia del sindacato in Italia, e di un sindacato che non si limita solo a fare i contratti, ma cerca anche di cambiare la società. Io vi lascio con questa riflessione, spero che le parole di Rinaldini si possano realizzare, spero che quest'anno, il 2022, sia l'anno in cui i lavoratori si possano organizzare a livello internazionale e combattere tutti insieme questa battaglia che è di tutti, e di sconfiggere il capitalismo per poter di nuovo vivere in un ambiente pulito e senza ingiustizie. Un saluto, compagni. Che ti chiedo, oggi devi scioperare.